Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Cristiano Valli per la regia, grazie a tutti voi per il gentile ascolto, grazie anche a Carlo Oliva che, ve ne sarete accorti, era rinchiuso nonostante la pinguedine in due cassettine magnetiche, ma dalla settimana prossima sarà qui con noi e l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima, medesima ora. Grazie a tutti, buona giornata.